No, io volevo chiedere una cosa sul rapporto che c'è tra il pensiero politico di Fanon e il suo personale attivismo politico, o anche la descrizione che fa, perché non ho letto Il danno di Nuova Terra, sul concetto di violenza, a partire da un paio di presupposti, perché sarà che uno psichiatra tende a analizzarsi costantemente, ma pare come un autore abbastanza tormentato, e già in Pelle Nera, Maschere Bianche si nota il fatto che questa dialettica esclusiva in realtà lui si frappone a metà strada quasi tra il colonizzato e il colono, proprio perché lui è il primo ad indossare quella maschera bianca di cui parla, è lui il primo a dire, con dei riferimenti anche molto autobiografici, che è lui che è stato assimilato dalla cultura francese, proprio rinunciando egli stesso a essere nero, rinunciando alla lingua, all'accento, parlando un francese perfetto, sposando una bianca, cioè, tutta una serie di note autobiografiche molto significative. Però alla fine di questa analisi di Pelle Nera, Maschere Bianche, che è un'analisi di violenza strutturale più che violenza insurrezionista, cioè proprio la violenza del discorso coloniale, c'è un passo in cui, con una conclusione di speranza, non so come chiamarla, lui dice: vorrei che un giorno il mio fratello, bianco o nero che sia, si liberasse dei ruoli, proprio perché in realtà lui stesso anche, forse inconsciamente, che questa dialettica di non inclusione tra i due termini non esiste, proprio perché è il padrone che si auto chiude nel ruolo, che è schiavo del suo ruolo, il padrone. All'interno di questo, come si sviluppa poi il concetto, cioè come vengono reintegrati gli oppressori nel progetto politico degli scritti postumi di Fanon? Nel senso, una volta che l'insurrezione viene eradica il soggetto colonizzatore, come viene questo reintegrato in un progetto più a lungo termine? Quindi come si fa a non solo estirpare l'oppressore, ma a renderlo effettivamente pari, quindi a liberare anche l'oppressore dal suo ruolo? Allora, l'esperienza, allora, c'è questo fatto che in realtà molto autobiografico dei testi di Fanon, che però non viene mai risolto. Cioè, Fanon è un po' come gli afroamericani, dominato dalla doppia coscienza, nel suo caso, diciamo, caraibico-francese, no? Come tipo di dualismo, che lui cerca di superare. Per esempio, nei Dannati della Terra dice: noi algerini, a un certo punto, quando fa delle riflessioni più sul fronte di liberazione nazionale, eccetera, dice: noi algerini, però lui non era assolutamente algerino. Anche nell'anno quinto della rivoluzione algerina dice, o forse parla addirittura in prima persona, non mi ricordo, comunque si descrive come algerino. Infatti lui alla fine, quando si trasferisce negli Stati Uniti per farsi curare definitivamente, cambia il suo nome, in realtà per delle ragioni pratiche, perché comunque era un personaggio abbastanza ricercato dai servizi segreti francesi, e quindi cambia il suo nome in Ibrahim Fanon. Però in realtà, secondo me, perché lui, cioè, vuole veramente diventare algerino. E infatti, perché proprio la sua concezione di rivoluzione nazionale è totalmente slegata da un concetto di identità nazionale storica. Cioè, la nazione è un progetto politico, tutti ci possono entrare. Non è il fatto di essere degli algerini perché si ha delle radici culturali, eccetera, insomma, semplicemente perché c'è un progetto politico rivoluzionario totalmente slegato dall'idea classica di identità nazionale, no? E quindi lui dice: io sono algerino perché adesso sono qui e sto facendo la rivoluzione algerina. Quindi c'è questo tentativo di superare un po' la sua condizione di sostanzialmente elite borghese coloniale che ha studiato in Francia, eccetera, eccetera, no? Però alla fine non lo supera mai, perché comunque il suo modo di ragionare rimane sempre interno alle categorie dell'Occidente. Per quello che dicevi invece della come si costruisce, cioè, questa nuova umanità post-razziale, priva di contrapposizioni, in realtà non c'è una vera tematizzazione, perché i dannati della Terra sono tutti, cioè, discorsi, insomma, ci sono i capitoli sulla violenza, c'è poi un capitolo interessantissimo sulla cultura nazionale, eccetera, e poi uno, come tu dicevi, appunto, lui è psichiatra, quindi capisce anche tutta una serie di discorsi medici sulle implicazioni della violenza, insomma, le ripercussioni della violenza su coloro che la esercitano e coloro che la subiscono. Infatti già lì, per esempio, il discorso retorico del Black Panther Party sulla violenza di Fanon già cade completamente, perché alla fine dei Dannati della Terra, quando prima Fanon nelle prime pagine dice bisogna uccidere il colono, poi alla fine parla di guerra coloniale e disturbi mentali, in cui riflette sul fatto che comunque la violenza genera disturbi mentali gravissimi in coloro che la esercitano, in coloro che si vogliono emancipare attraverso la lotta armata, perché ne subiscono tutte le conseguenze psicologiche di una vita in un contesto di guerra, no? E poi comunque alla fine parla, c'è tutto quel discorso sulla rottura con la cultura europea, che è tutto un discorso di rottura e ripresa, cioè lui dice riprendiamo il progetto dell'umanismo europeo che in Europa ha fallito, però in realtà per il momento in cui era stato scritto, quindi è ancora guerra in corso, non c'è una tematizzazione su un possibile riconciliamento con la cultura francese, eccetera. C'è un po' prima, nell'anno quinto della rivoluzione algerina, perché comunque lui, per esempio, sul discorso del velo fa tutto un tipo di, cioè, non fa il discorso classico della risposta alla colonizzazione tramite l'assunzione delle identità culturali, quindi il fatto che per esempio i francesi andavano a levare il velo alle donne algerine presentandosi come liberatori, no? Civilizzatori liberatori, lui dice, non è che dice no, bisogna assumere il velo perché le nostre identità storiche, culturali sono da frapporre a questo tipo di colonizzazione culturale, ma dice la liberazione della donna da questo tipo di questa cultura religiosa deve avvenire tramite la donna stessa, deve essere lei a deciderlo, sì o no. Quindi insomma lì c'è quell'elemento comunque europeo, no? Cioè alla fine comunque il suo modello è una società totalmente laica, socialista, perché il suo riferimento è poi il marxismo, eccetera, e quindi di tipo europeo, cioè insomma la religione deve essere totalmente fuori dal discorso politico, però in questo senso qua, nel senso sarà i popoli colonizzati a farsi soggetto della propria liberazione, no? Tuttavia non c'è una vera tematizzazione sulla convivenza tra identità che sono in quel, insomma, tra soggetti che in quel momento erano ancora in guerra, quindi insomma, viene ripreso, lo cerca di riprendere per esempio Gilroy sulla sua idea di, insomma, di un nuovo umanesimo post-razziale, che però da Fanon prende semplicemente l'intuizione che la blackness non è semplicemente un discorso di riproposizione all'inverso del razzismo, poi è tutto problematico, perché andare a dire agli afroamericani che la blackness è un razzismo all'inverso è difficile, però insomma, per esempio Gilroy cerca di fare questo, cioè propone un cosmopolitismo su basi umanistiche che cerca di non di dimenticare tutti i discorsi sulla valorizzazione della razza, cioè che sia valorizzazione o che sia denigrazione del... No, poi comunque studi, cioè c'è un problema terminologico anche sul concetto di razza stesso, perché è una categoria che qui non viene usata, in Italia non viene usata, sì. Mentre negli studi anglofoni e o statunitensi inglesi il concetto di razza è persiste, radicato, teorizzato, quindi è difficile anche distaccarsi. Posso fare solo un intervento a questo proposito? Per l'appunto non c'è teorizzazione di Fanon su questo argomento, questa domanda che tu facevi. Ho l'impressione che nel suo lascito ci siano tanti tentativi di teorizzazione sempre attuale soggetto colonizzatore, e come questo si può rivedere, allargando la categoria e sempre facendo riferimento alla consapevolezza del singolo in quanto cittadino di una nazione, ma anche implicato in dinamiche economiche che hanno conseguenze ormai ovunque praticamente, leggendo in giro ho l'impressione che la stessa dinamica del razzismo, cioè in quanto utilizzo di categorie, possa andare verso un'esplosione, come dire, fruttifera e produttiva, fertile, ecco, mi piace di più come termine, e qualora si rifletta molto su un aspetto che tu tiravi fuori giustamente più volte, cioè la questione che il nero è stato fatto e che in quanto stato fatto molto spesso le comunità che hanno risposto in varie maniere agli attacchi razzisti per rivendicare la propria identità, per l'appunto, si sono fermate a un discorso identitario da cui non riuscivano molto a venire fuori, ed è per questo che comunque la convivenza di colori di pelle differenti, tipo negli Stati Uniti, è ancora così, così determinante di discorsi quotidiani, di conseguenza anche di dibattiti accademici, diciamo. E quindi il qual è il fatto che, a mio avviso, il soggetto razzializzato non ha mai avuto, per doversi difendere da una razzializzazione, da una discriminazione imposta dall'esterno, ha sempre dovuto rispondere con una controrisposta, cioè usava risposta, ci metteva un contro davanti e quindi esagerava anche questioni identitarie, per l'appunto, che spesso sembravano basate sul nulla. In questo modo io ho come l'impressione che tante realtà sociali che hanno, tante comunità che hanno subito questa situazione a tutti i livelli, cioè a livello economico, a livello di interazione con altre comunità in un paese, penso anche al Sudafrica per esempio e via dicendo, non hanno mai avuto veramente modo di attuare un processo che secondo me è caratterizzante la storia europea, ma anche la storia del singolo soggetto europeo, cioè quella di più o meno autonomamente, in un certo senso, rivendicare una propria indipendenza di pensiero rispetto alla tradizione. Ora c'è solo un recupero della tradizione, c'è stato solamente un recupero della tradizione in termini per l'appunto quasi nazionalisti piuttosto che, capito, super comunitaristi, cioè chiusi. Perché? Perché questo era come l'unico, quasi l'unica tana in cui ci si poteva mettere per difendersi dall'esterno. E secondo me Fanon ha dato il là a delle intuizioni di altre persone che hanno riflettuto sui suoi scritti, che hanno avuto anche esperienze personali di attivismo politico, soprattutto appunto io penso a zone sempre Stati Uniti o Caraibi, tali per cui ci si è resi conto che in effetti per rifiutare l'assimilazione si finiva per tacciare l'Occidente di tutti i mali. Prendere il recupero delle radici come il bene assoluto, quando, voglio dire, è evidente che non è, anche questa è una riproposizione di un discorso manicheo imposto dall'esterno. In un certo senso, secondo me, il lascito di Fanon, che può essere interessante anche per il colono, che continua a essere imperialista nelle sue pratiche politiche, perché sappiamo che è così la realtà in cui stiamo vivendo, è di permettere di ripensare a una serie di possibili tradizioni passate e come rispetto a queste tradizioni ci si sarebbe potuti emancipare mantenendo cosa e rifiutando cos'altro, di conseguenza, capito, in una maniera meno di assunzione della tradizione come sola maniera di ripararsi dall'esterno, in maniera tale da rimanere invischiati nella tradizione e rifiutare le cose buone che possono venire dall'esterno. E quindi in questo senso, secondo me, questo può essere un discorso utile sia per il nero, la nera, la ricerca della sua identità razziale, tra virgolette, con tutto che ha costrutto, sia per il bianco universale o la bianca universalista, come dire, che può scoprire in una dinamica creola di scambio molti punti di forza in realtà, perché se no appunto la chiusura identitaria è, voglio dire, cioè è una pratica reazionaria che venga fatta dal colonizzato, dal colono. Però il fatto è che se lo fa il colono ha una certa valenza, se lo fa il colonizzato ha un'altra, e questo secondo me è una dinamica a cui bisogna stare attenti.